Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Allora, ripeto, qui Capodimonte Solar Bay, confermo, se ritrovi vivi. Stiamo operando insieme a USA Toscana e a componenti delle ponte per tirarli fuori. Ma sono vivi. Copiato, sei vivi. Grazie caporeparto, ci vediamo a breve, sto salendo su. Ok, però servono coperte, ricordati per portarle via, che sono comunque non in perfette condizioni, come puoi ben capire. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, i soccorritori che questa mattina annunciavano via radio dagli elicotteri, gli uni con gli altri, di aver individuato alcune persone vive sotto le macerie di quello che ormai è diventato il simbolo della tragedia, nella tragedia di questi giorni, l'hotel Rigopiano sulle pendici del Gran Sasso a Farindola in Abruzzo, perché stamattina è arrivata questa splendida notizia di persone ritrovate vive ed estratte. Adesso siamo, diciamo, il bilancio più o meno di 10 persone ritrovate vive, salvati tutti e 4 i bambini che erano presenti in quell'hotel. Quindi si è parlato da vari varie persone di miracolo in questo caso, perché davvero, insomma, le speranze si erano ridotte al lumicino. Ieri sera però ricordate che nell'altra puntata di speciale di Effetto Notte, perché questa è puntata speciale, andremo avanti 2 ore fino alle 23, quindi anche questa sera, se volete intervenire, a parte la pagina Facebook di Effetto Notte o il 349-238-6666, preferirei sentire direttamente le vostre voci al numero verde, che è un numero gratuito, 800-24-0024, perché parleremo di questo. Naturalmente ci concentreremo ancora su quello che sta avvenendo, che è ancora in evoluzione, speriamo in evoluzione positiva, in Abruzzo. E poi anche dell'insediamento ufficiale di Donald Trump come 45esimo presidente degli Stati Uniti. Dicevo, i soccorritori parlavano appunto tra di loro, il loro salvataggio eroico che hanno fatto di queste persone, dandoci questa meravigliosa notizia. Man mano poi ci aggiorneremo, perché ogni tanto i numeri non sono sicurissimi, gli stessi medici, psicologi dicono: attenzione voi dell'informazione a non dare notizie imprecise, perché create turbamento, come possiamo capire nelle famiglie che stanno aspettando, insomma, di capire che ne è dei loro cari. Quindi puntata speciale insieme sino alle 23. Saluto Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Raffaella, quindi per fare un po' un riassunto di tutte queste notizie che sono arrivate oggi, poi so che tra l'altro i parenti che sono, poi sentiremo il nostro Morini, che è sempre lì dove ci sono i vertici anche della Protezione Civile vicino a Farindola a Penne, ci racconterà anche dei parenti che hanno urlato vergogna a un certo punto nella conferenza stampa, di Pescara, no? con il capo della Protezione Curcio, perché è chiara la tensione. Hanno, no? sollecitato vogliono notizie sapere sui loro cari, che comunque aspettano da ore, da tante ore. Senti, quindi si parlava appunto di miracolo, perché sono state estratte queste persone dopo oltre 40 ore praticamente. Beh, no? Effettivamente, quando ormai forse quelli che più ci credevano erano proprio i soccorritori, oltre ai familiari. Scusa se ti interrompo, Rafa, ecco, mi ero interrotta prima così perché ho perso il filo del discorso. Dicevo, ieri ci eravamo lasciati, ti ricordi Raffaella, con la dichiarazione di uno dei soccorritori che aveva detto: le speranze sono davvero esigue, però noi sappiamo, essendo intervenuti in tante valanghe, che a volte ci sono dei salvataggi insperati, e ci eravamo lasciati con questa speranza che effettivamente oggi ha dato i suoi frutti. E infatti, proprio come stavo dicendo, quelli che più di tutti forse ci credevano anche davanti a situazioni estreme erano e sono sempre stati e continuano ad essere proprio i soccorritori, anche perché, come ci dicevamo già ieri, solo questa convinzione di poter credere davvero che ci possono essere delle persone ancora in vita riesce anche a alimentare questi soccorsi in condizioni, a spingerli oltre, condizioni estreme di freddo e anche di pericolo per loro stessi. Perché hanno visto questi cunicoli strettissimi in cui si infilano, dove resi ancora anche più cadere, difficili e ancora più pericolosi dal fatto che le temperature che si sono alzate rinnovano l'allarme valanghe per quelle zone. Per cui davvero, devo dire, è stata una notizia che ha emozionato loro per primi, ma un po' po' tutti quanti noi, certo, e tutto il mondo, perché è una notizia che è rimbalzata sul, anche sui circuiti internazionali, quella di questa mattina che abbiamo ascoltato poco fa, di quelle comunicazioni, cioè quando è stato individuato il primo gruppo di sopravvissuti, i primi 6 persone. Ecco perché oggi c'è stata grande incertezza sui numeri, perché bisogna capire come funzionano queste operazioni. Le prime persone, 6 persone, sono state individuate, protette da un solaio della sala biliardo e dalla stessa neve, che in qualche modo aveva creato una protezione. Ma dal momento in cui vengono individuati, al momento in cui vengono estratti dalle macerie, passano ore, perché sono operazioni assai lente, perché bisogna chiaramente procedere senza far smuovere quelle travi che altrimenti potrebbero provocare degli ulteriori crolli. Quindi il primo gruppo di 6 persone, da questo gruppo di 6 persone i primi ad essere estratti sono stati la signora Adriana Parete, la moglie dello chef che per primo ha dato l'allarme, e il figlio Gianfilippo. E da subito la signora ha detto: andate lì, c'è anche mia figlia, c'è anche l'altra bimba Ludovica, che invece è stata poi estratta dalle macerie soltanto a tarda sera insieme agli altri quindi bimbi. Si è ricomposta la famiglia, quindi la famiglia Parete si è ricomposta per intero nell'ospedale, e possiamo immaginare quale grande gioia, quale grande emozione abbiano condiviso nel momento in cui nessuno anche di loro ci credeva più. È stato queste le parole che la signora, la mamma, la signora Adriana Parete ha detto ai soccorritori nel momento in cui l'hanno portata fuori. Già estratti, dicevamo, dalle macerie anche l'altro bimbo Edoardo, che è il figlio di una coppia della provincia di Chieti, e il quarto bimbo ancora. Si tratta invece del figlio del poliziotto di Osimo, che era in vacanza con i genitori. Anche i genitori dovrebbero essere ancora vivi e dovrebbero essere stati individuati. Quindi, Raffaella, siamo sicuri che tutti i bambini che erano ospitati sembra siano stati tutti tratti in salvo? Esatto, no? Tutti e quattro i bambini, come ci aveva detto il sindaco, si trattava di 4 bimbi dispersi. A questo punto sono tutti e 4 sani e salvi, ed è questa la più bella delle notizie di oggi. Nel frattempo, in questa giornata, le ricerche proseguono in tutti i punti di quel che resta dell'albergo, diffuso appunto su oltre 300 metri, e i soccorritori, i vigili del fuoco in alcune zone hanno individuato segnali della presenza di altre persone. Prima si è parlato di 2, poi si è parlato di 5, e in questo momento ancora sono in corso delle comunicazioni con un gruppo, diciamo, di altri sopravvissuti che si troverebbero in un locale non facile da raggiungere, come ha specificato il responsabile comunicazioni dell'ufficio stampa dei Vigili del Fuoco, Luca Cari. Da qui si spiega perché le informazioni e i numeri a volte sono così diversi tra quelli individuati e quelli che poi vengono estratti dalle macerie. Quindi, se dovessimo adesso, Raffaella, dare un possibile sunto delle cifre rispetto a in questi che casi dicevi, devo dire, è davvero perché sempre molto rischioso, perché i titoli, ad esempio, danno 10 trovati, ecco, vivi, salvati tutti i 4 bambini, sono quindi stati individuati, 10 sono stati individuati e sono tutti vivi. Bisogna, dopodiché, vedere quali sono quelli estratti già, ecco, dalle estratti, quelli che già sappiamo che sono i 4 bambini più la mamma, la signora Parete di cui parlavamo. Dopodiché, nella giornata di oggi, più volte si sono anche trovate e poi perse delle comunicazioni con delle persone che si trovano al di sotto ancora delle macerie. Da qui anche, diciamo, questo alternarsi di entusiasmo e di attesa e di angoscia anche dei familiari, che ad esempio abbiamo registrato la soddisfazione del sindaco di Osimo per la gioia che tutta la famiglia del poliziotto era stata individuata ed è sana e salva. Però, a quanto sappiamo ora, estratto dalla macerie c'è per ora soltanto il bimbo, non ancora i genitori, anche se erano stati individuati. Quindi sono operazioni lente e quindi bisogna aspettare che vengano portate a conclusione. Quindi c'è di nuovo ancora una lunga serata, una lunga notte di ricerche, mentre vengono identificati anche purtroppo le vittime accertate, le 2 vittime accertate. La seconda vittima si tratta di uno dei camerieri dell'hotel. Insomma, operazioni ancora molto faticose, ancora molto lente, però di sicuro questo miracolo di Rigopiano, come l'hai definito tu in apertura, sta scaldando le speranze dei soccorritori e in qualche modo sta alimentando ancora di più la loro azione, diciamo, di ricerca. Sentiamo, Raffaella, l'entusiasmo proprio dei soccorritori quando è stato estratto il primo bambino questa mattina. Spazio! Corridoio! Bravo! Bravo! Bravo! Ecco, e poi c'è, vedo, arrivano già i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, però come ieri mi piace di più la vostra partecipazione, quando c'è aperto il numero verde fate sentire le vostre voci all'800-24-0024. Carola da Torino dice: che bello, non ho avuto modo di sentire le news di oggi, quindi ci fa piacere, Raffaella, dargli in anteprima. Abbiamo dato questa bella notizia. Ecco, dice: vivi anche i bimbi di quel papà che sembrava essere l'unico superstite della sua famiglia, bel fine settimana, almeno per loro, Carola, e speriamo che lo sia per la maggior parte delle, dei familiari. Ricordiamo che però erano 30 i dispersi. 30 dispersi, infatti, cioè tra personale e ospiti dell'albergo. L'assessore alla protezione dell'Abruzzo già ieri ha detto che erano, insomma, presenti una trentina. Quindi aspettiamo, visto che di questi insperati salvataggi ce ne sono stati diversi oggi, speriamo anche nelle prossime ore, anche perché Raffaella, il capo della Croce Rossa, diceva oggi che in quelle condizioni, seppur proibitive, si creano però delle sacche d'aria, diciamo così, anche sotto la neve, sotto le macerie, per cui se le persone sono in buona salute anche 4-5 giorni possono resistere. Speriamo, speriamo che sia così. Allora, questo gruppo di primi sopravvissuti si sono protetti, appunto, perché innanzitutto è un po' come quando c'è un terremoto. Bisogna capire il punto in cui si trovano e quindi il punto che li possa riparare dalle macerie, dai crolli, quindi che eviti anche che cadano a loro addosso pietre, tutto, certo, quel che in questi casi viene, si rischia di essere travolti. Quindi questa la prima cosa. La seconda cosa, come in questo caso, questi superstiti erano riusciti ad accendere anche un fuoco e quindi in qualche modo a scaldarsi. A quelle temperature, forse, certo, sì, ecco, il cibo sicuramente finisce con l'essere, però a volte l'aspetto secondario, perché, chiaro, la resistenza, diciamo, da cibo è più lunga rispetto alla mancanza di ossigeno o se non quella di acqua. Per cui quello che noi sappiamo è che i primi due piani dell'albergo praticamente sono stati accartocciati su se stessi e sono finiti sul primo. La speranza che, come per questo caso, ci siano create delle zone in cui le travi stesse, la neve stessa e quindi anche la durezza del ghiaccio abbiano protetto le persone che erano al di sotto, possa in qualche modo averli custoditi ancora e permettere ai soccorritori di raggiungerli. Il ghiaccio che però dall'altra parte ostacola, rende più difficile far arrivare all'esterno quei segnali di vita che invece sono fondamentali per i soccorritori per capire dove andare, e infatti sono stati molto d'aiuto soprattutto i cani, che invece hanno fiutato, diciamo, la presenza di persone. E viva anche i cani, oltre a tutti questi soccorritori, donne e uomini della protezione civile, dei gruppi volontari, dei vigili del fuoco, eccetera, il soccorso alpino. Raffaella, noi abbiamo adesso la viabilità, poi c'è Daniele Morini che anche lui da quei luoghi ci ha aggiornati in questi giorni, e poi c'è Giacomo da Bergamo, cominciano le prime telefonate all'800 24 0024. Tu resti con noi, ma mi sa che sei stanca tutto il giorno che sei dietro e tutti i giorni, diciamo, forse ci salutiamo qui, forse ci salutiamo, la lasciamo qui andare, anche perché domani se ne continuerà a parlare anche in Storiacce sul fronte dell'inchiesta, certo, alle 21:30 domani e Storiacce, quindi... e dopo manderemo anche un pezzo della tua intervista al procuratore di Pescara, visto che appunto come dicevamo ieri ci sono stati dei morti, quindi si è aperta obbligatoriamente, doverosamente, un'inchiesta per capire, e sono già chiariti anche quali sono le direzioni in cui questa inchiesta andrà, poi lo ascolteremo dalle parole del procuratore, ma sono ben precise. Da una parte l'allerta valanghe data 4 giorni prima, e bisogna capire se è stato fatto tutto quello che questa procedura, diciamo, prevede, e se tutte le comunicazioni dagli organi istituzionali erano arrivati a tutti i referenti, hotel compreso. Poi c'è il fronte dei tempi, quindi i tempi dello spazzaneve che mai è arrivato, esatto, e che quindi ha impedito alle persone di lasciare questo albergo, e i tempi dei soccorsi, come dicevamo anche ieri, perché sia funzionato tutto correttamente o meno, dal momento in cui è stato dato proprio dallo chef Parete il primo segnale di allarme al momento in cui effettivamente la macchina dei soccorsi si è messa in moto. E poi c'è ancora un ultimo fronte d'inchiesta che andrà indietro nel tempo per capire se effettivamente quell'albergo quel giorno non solo se poteva essere aperto, ma anche se quell'albergo poteva essere costruito lì. E di tutto questo appunto poi lo sentiremo domani. E poi anche domani in Storiacce alle 21:30 con Raffaella Caranda. Ciao Raffaella. Ciao Roberto, grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. In realtà più che 60 minuti, 120 minuti questa sera, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberta Giordano sempre con voi. È come ieri una serata speciale, una puntata speciale di Effetto Notte, visti anche gli eventi. Ieri abbiamo seguito tutto il tempo la vicenda dell'hotel Rigopiano. Stasera, oltre a questo e naturalmente alle emergenze del centro Italia, anche parleremo più in là dell'insediamento ufficiale di Trump come 45esimo presidente degli Stati Uniti. Ora però ci colleghiamo subito con il Vice Ministro degli Interni Filippo Bubbico, che saluto, ringrazio per la disponibilità, che so che è molto preso. Buonasera. Ministro, in questi giorni, no? Perché lei era sul campo, era proprio in quelle zone. È ancora lì. Senta, ci racconta un po' dalla sua esperienza, quindi personale, questi giorni, come sono andati? Ma la cosa rilevante è la capacità di intervento delle nostre strutture di soccorso, dai vigili del fuoco, dal soccorso alpino, esercito, gli specializzati della Guardia di Finanza, tutte le componenti dello Stato, il protagonismo delle associazioni di volontariato, di protezione civile, l'impegno degli amministratori locali. E in una situazione particolarmente difficile, molto molto severa, quando sono arrivato, quando ho visto l'albergo, devo confessare che ho subito temuto il peggio, ho temuto che non saremmo mai riusciti a tirar fuori delle persone da quel disastro, perché le proporzioni dell'evento non sono neanche paragonabili a quelle straordinarie che normalmente pensiamo. E poi la concomitanza di neve, tantissima neve, la valanga, il terremoto, rendeva tutto complicato e difficile. Una sovrapposizione, insomma, di eventi straordinari, no? Di eventi straordinari e negativi. E ho visto la professionalità e la determinazione delle squadre di soccorso. Ho visto il loro impegno, perché loro scavano, loro scrutano, loro sondano, e non potevano né si possono ancora usare mezzi meccanici, perché la neve può coprire dei corpi, sotto le macerie ci sono delle persone che poi fortunatamente sono state trovate e prelevate, 5 delle 10 individuate, e portate in ospedale in condizioni, diciamo, accettabili di benessere fisico e psichico. E ora stiamo assistendo ad un ulteriore slancio, ad una ulteriore iniziativa tesa non solo a tirar fuori le 5 persone con le quali le squadre di soccorso parlano, ma a trovare anche le altre persone. Certo. A individuare gli altri disperati. È quello che speriamo. Bubbico, allora, mentre davvero tutta l'Italia che è accorata, e oltre questa mattina, insomma, penso la gran parte delle persone ha avuto una risonanza anche internazionale, avranno avuto un senso di sollievo e di gioia, e adesso ancora sperano e speriamo tutti che altre persone si possano estrarre vive, le farei sentire Quintino Marcella, che è il capo dello chef, che è stato il primo, Giampiero Parete, a dare l'allarme, quello che si era salvato fortuitamente uscendo dall'hotel per andare in macchina a prendere delle pastiglie per la moglie. Adesso la buona notizia è che si è ricomposta tutta la sua famiglia, però lui aveva telefonato lì dalla macchina, vedendo venire giù la montagna, al suo capo, che gestisce questo ristorante, Quintino Marcella, per l'appunto. E Marcella ieri in diretta qui a Radio 24 a Effetto Notte questo ci ha detto. Io io subito, appena ho riattaccato il telefono, ho chiamato subito. Ecco, chi ha chiamato lei? Prima il 113, mi ha passato alla prefettura, ho parlato con una signora dirigente che coordinava questi servizi e lei mi ha detto, guardi che 2 ore fa abbiamo parlato con il direttore dell'hotel e lì non c'è nessun problema, è tutto a posto. Ma io ho continuato un po' arrabbiato perché dico, come tutto a posto, ma chiamata adesso, il mio cuoco è una persona seria. E a me che sapete chi sono, nome, cognome, mi sono qualificato, dico, come mamma? Morale della favola, insomma, non sono stato tanto creduto. Allora comincio a chiamare i carabinieri, chiamato 117, 118, ho chiamato tutti, ho richiamato la polizia ancora una volta e dopodiché praticamente dopo un'oretta, un'ora e mezza, non mi ricordo, mi ha richiamato uno della protezione civile, mi ha detto guardi che allora mi dia il numero del cuoco, mi ha preso le cose, ma ha preso in considerazione la mia telefonata. Quindi un'ora e mezza dopo? Beh, circa, ma non lo so esattamente, comunque così, quello comunque... È passato un po' di tempo, insomma, dal suo primo allarme. Con l'altra persona, lo può vedere con l'altra persona, che quella persona che stava con quel signore della protezione, quello sarà lui, io non me ne ricordo tutti. Mm. E dopodiché che cosa è successo? Che praticamente fino alle 11 ci siamo messaggiati un po' nel dire, lui mi chiedeva aiuto, io dicevo stanno arrivando, ma sta arrivando purtroppo... Io adesso ho capito che è una macchina molto complessa, però non lo capisci sempre dopo, l'ho capito subito. Ministro Bubbico, quindi diciamo al di là della situazione, di questa sovrapposizione di eventi così eccezionalmente negativi, delle difficoltà, dell'eroismo anche delle donne, degli uomini del soccorso, della protezione civile, eccetera, è possibile che qualcosa non abbia ben funzionato? Lei sa che è stata aperta un'inchiesta, no? Per capire. Proprio per questo è doveroso aspettare che gli organi preposti sviluppino le proprie attività di indagine e individuino eventuali profili di responsabilità. Noi in questi giorni, in queste ore, non abbiamo voluto occuparci di questi problemi perché non solo c'è la magistratura che deve fare il la suo propria lavoro, attività, certo. Ma c'è anche tempo per fare tutti questi accertamenti. Per noi la priorità, come ha detto il Presidente Mattarella, come ha sempre sottolineato il Presidente Gentiloni e il Ministro Minniti, per noi la priorità era portare soccorso alle persone in difficoltà, ce ne sono tante che sono state raggiunte dai mezzi di soccorso e produrre ogni sforzo per cercare i dispersi. Ed è il lavoro che è stato fatto, per fortuna con risultati positivi che noi ci auguriamo possano essere confermati da altri ritrovamenti delle persone disperse perché vengano recuperate, salvate, restituite alle proprie famiglie. E poi, ripeto, tutto quello che è accaduto prima verrà esaminato, verrà valutato e verranno individuate eventuali responsabilità. Se ci sono. Bubbico, le faccio un'ultima domanda perché so che anche poco tempo è molto preso, naturalmente, essendo lì sul posto. Le volevo chiedere, oggi ad Amatrice, il paese distrutto dal terremoto del 24 agosto scorso, insomma, che continua a essere in situazione molto difficile, oggi sono state estratte le prime 25 case, è stata fatta un'estrazione a sorte tra coloro che avrebbero avuto diritto a queste prime 25 case pronte. In realtà mi pare che le richieste fossero in totale 36, non era possibile quelle 11 casette che mancavano darle tutte pronte, tutte insieme, invece di fare questa estrazione? Non ho proprio elementi per rispondere a questa sua domanda. So che anche su quel fronte è in atto uno sforzo straordinario intanto della protezione civile per garantire i primi interventi, le sistemazioni provvisorie, ed è in atto uno sforzo eccezionale che il commissario per la ricostruzione, il presidente Errani, sta producendo. Poi circa questi dettagli veramente non ho elementi per dire alcun. Va bene, la lascio adesso a quest'altra emergenza che sta seguendo. Intanto le auguro allora buona continuazione e buon lavoro, ministro Bubbico. Grazie, anche a voi, buona serata. Ora invece chiedo scusa alle ascoltatrici e ascoltatori che sono in attesa da un po', ma d'altronde Bubbico poteva soltanto in questo momento, mi è stato comunicato. Allora c'è ancora Francesco da Trani, ancora un po' di pazienza. Gli altri ascoltatrici e ascoltatori all'800240024 che poi sentirò. C'è Daniele Morini anche che sta aspettando, che in questi giorni lì anche lui al freddo e in quei luoghi insomma... diciamo rabbuiate anche dalla tristezza e stamattina un po' illuminati dalla speranza, ci ha aggiornati man mano. Daniele, tu oggi eri all'ospedale di Pescara? Sì, io diciamo che ho seguito quest'onda di speranza che intorno alle 11.45 di stamattina, eravamo a Penne ancora come ieri per rendere vicinissimo conto un po' Farindola, ricordiamo dove c'è esatto, l'hotel. Esatto, è il posto avanzato al Palazzetto dello Sport dove oltre quello non si può andare, solo i soccorritori possono andare oltre quel posto avanzato, ma lì convergono tutte le squadre di soccorso. Quando abbiamo cominciato a capire che qualcosa stava succedendo, abbiamo raccolto prima le testimonianze dei soccorritori che scendevano man mano, insomma, o che erano in contatto con le squadre quando sono stati annunciati i primi 5, poi 6, poi 8, insomma, ritrovamenti dei superstiti. E seguendo poi quest'onda di speranza, intorno all'ora di pranzo ci siamo trasferiti all'ospedale di Pescara, dove via via hanno cominciato ad arrivare appunto le persone estratte dall'hotel. Le prime ad arrivare sono, come sapete, insomma, la moglie e il figlio Gianfilippo, il figlio e moglie di Giampiero Parete. Le prime notizie che arrivavano su Gianfilippo, il piccoletto, 7 anni, dopo insomma le prime visite, i primi controlli che avevano accertato solo una leggera ipotermia e una leggera disidratazione, già si parlava nei corridoi dell'ospedale di come il piccolo scherzasse, ridesse insomma sul letto dell'ospedale con tanta speranza di poter riabbracciare, cosa che poi sta accadendo probabilmente in questi minuti. Abbiamo sentito l'elicottero sorvolare l'ospedale proprio poco fa, di abbracciare, dicevo, la sorella Ludovica. La notizia bella di questo tardo pomeriggio è che stanno arrivando in ospedale i 3 bambini, quindi tutti e 4 i bambini sono che erano salvi. Lì sotto sono stati recuperati. Sorridente e festosa l'abbiamo incrociata anche la zia di Edoardo Di Carlo. I suoi genitori Sebastiano e Nadia sono ancora tra i dispersi, però il bimbo è tra i 3 che stanno arrivando in questo momento. Quindi ecco, queste notizie di metà mattinata ci hanno veramente cambiato un po' la giornata, l'hanno cambiata ai soccorritori che, come diceva Bubbico, hanno ripreso uno slancio diverso, insomma, no? Con tanta speranza in più. Purtroppo, ecco, dobbiamo anche rendere conto qui oggi in ospedale di una tanta attenzione da parte di quei familiari che ahimè non hanno ancora notizie dei loro congiunti. E durante il punto stampa delle 18:30 dei dirigenti sanitari e medici dell'ospedale hanno fatto una sorta di piccola irruzione a 5 o 6 di loro per dire: sono 50 ore più o meno che non abbiamo notizie dei nostri congiunti, prima di darle alla stampa datele a noi. Ma giustamente sono giustificati i dirigenti medici dicendo: noi alla stampa diamo le notizie di quelli che sappiamo che sono arrivati che qui, sono che certe. Sono presi in cura, degli altri naturalmente non sappiamo nulla. Anche poi hanno annunciato che in realtà sono ormai in contatto costante con il posto avanzato di soccorso che è stato istituito nell'area di crisi proprio di Farindola Ridosso, a 4-5 km dall'hotel, e in contatto costante sanno appunto di altri sopravvissuti che man mano che vengono recuperati vengono avviati e portati presso la struttura ospedaliera di Pescara. Quindi io direi che nelle prossime ore ci potranno essere delle belle notizie, anche perché sono, come forse avete detto anche voi, altri 5 le persone che vengono, che danno segnali, che dialogano con i soccorritori e che spero presto arriveranno qua, insomma. Daniele, allora grazie intanto, Daniele Morini, poi se ci sarà modo, occasione, volentieri ti richiamiamo se sei raggiungibile più tardi. Grazie anche a te, buon lavoro. Ringrazio Francesco Di Trani che ha resistito parecchio al telefono. Francesco, d'altronde buonasera. In questa situazione forse si può, anche se proprio non si hanno degli impegni impellenti. Grazie di aver chiamato e di essere in ascolto, Francesco. No, ma tanto sono in viaggio, per cui non c'è problema. Non c'è problema, benissimo. Quindi, di cosa volevi parlare, Francesco? No, io diciamo che sono ovviamente come tutti felicissimo per questi ritrovamenti di queste persone, bambini che miracolosamente sono rimasti in vita, anche perché io sono un medico, per cui ieri seguivo un po' con mia moglie e mia figlia, eravamo veramente traumatizzati da queste notizie e da medico in effetti ho palesato i dubbi sul fatto che potessero resistere così tanto tempo, in quelle condizioni. Non nascosti un po' come è successo in una nicchia, un po' adesso non ho capito bene dove erano nascosti. Sembra che comunque le prime persone salvate, Francesco, fossero, lo ha detto il sindaco proprio del paese, fossero nella sala bar e sala giochi dove c'era il biliardo, che probabilmente era più in basso, e quindi rispetto ai primi due piani che sono collassati si sono salvati in quel locale. Però ecco, esco un attimo, ripeto, fatta questa premessa di questa, sicuramente questo sollievo per queste persone, sperando che anche gli altri siano magari nascosti in altre zone dell'albergo. Io faccio un discorso un po' più generale e mi rifaccio anche un po' alla nevicata che c'è stata 15 giorni fa in Puglia, che ha bloccato, per fortuna, senza ovviamente questo dramma di quello che è successo in Abruzzo, anche perché non c'è stato ovviamente il terremoto, però ha bloccato anche lì mezza regione per una nevicata, probabilmente, per quanto molto impegnativa, molto forte, però non a quel livello. Io mi chiedo, nella tecnologia oggi di internet, questi siti anche meteo, dove ognuno di noi riesce a vedere nell'arco dei giorni successivi che tempo ci sarà, e credo che ovviamente la protezione civile, le forze dell'ordine hanno dei sistemi ancora più aggiornati, ancora più evoluti, è mai possibile non riuscire a fare una prevenzione degna di tal nome? Ora, le turbine che sono state aspettate per 3 giorni, non era il caso di farne scendere una in zona? E lo so, Francesco, queste sono domande che continuano a rimbalzare, e poi si spera che qualche risposta verrà data e anche qualche misura verrà presa, nel senso, siamo il paese, abbiamo detto che quando poi c'è da intervenire dopo di solito siamo bravi come protezione civile, è una lunga tradizione eccetera, però sulla prevenzione si dice che in Italia manca la cultura del rischio, visto che noi abbiamo un territorio dal punto di vista geologico, orografico eccetera, e anche meteorologico, insomma, piuttosto a rischio, e manca questa cultura della prevenzione e del rischio ambientale. Francesco, però rimaniamo con queste domande. Io tanto ti ringrazio. Prima della pausa c'è Francesco da Monza Brianza. Antonio. Antonio, buonasera sì, a tutti. Ciao Antonio. Grazie ascoltatori. Sì, no, niente, io volevo innanzitutto, insomma, essere grato a chi sta soccorrendo quelle persone, che obiettivamente siamo, credo, tutti in tensione, no? Ogni persona estratta viva non possa essere che una vittoria per chi va a soccorrere queste persone, certo, e per tutti noi. E poi spezzare anche una lancia a favore di questi animali, dei cani, che senza di loro, vorrei anche sottolineare, non avremmo potuto sapere dove sono realmente le persone sepolte, perché chiaro, non ci dimentichiamo. Esatto. Grande merito ai cani, lo dicevo all'inizio, insomma, al di là di noi esseri umani, degli esseri umani, donne e uomini che si stanno facendo in mille lì, in particolare all'Hotel Rigopiano, ma anche in altre zone, e da tempo, anche dai terremoti. Sicuramente senza questi adorabili animali, bravissimi, insomma, sarebbe molto più difficile, no? Recuperare persone che sono sotto metri di neve o di calcinaccio o di macerie. Hai fatto bene a ricordare anche loro. Non è il momento delle polemiche, anche se uno qualche domanda se la fa sulle 50 ore di attesa o il fatto che qualcuno abbia chiamato, insomma, la protezione civile, il 118, e l'abbiano anche un po' preso così, no? Alla leggera. Sentivamo prima sì, Quintino Marcella, che era in diretta ieri qui a Effetto Notte. Poi sentiremo anche quella un pezzo di intervista al procuratore di Pescara, che parla appunto dell'inchiesta, dei vari filoni di inchiesta, intervistato da Raffaella Calandra, poi ci sarà tempo di sentirlo. Grazie intanto Antonio e buona serata a te. 349-238-6666 il numero per i messaggi, però preferisco il numero verde stasera, visto che è aperto il numero per le telefonate, per le vostre voci, 800-24-0024. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, in realtà puntata speciale di Effetto Notte anche questa sera, andremo insieme in compagnia fino alle 23, iniziate come sempre alle 21, però sino alle 23 per continuare a occuparci di quello che sta succedendo in particolare in Abruzzo e in particolare le pendici del Gran Sasso con l'hotel Rigopiano travolto da questa enorme valanga, però da dove insomma sprazzi di luce e di speranza continuano a venire. Abbiamo detto che in totale le persone vive alcune estratte, alcune ancora in comunicazione con i soccorritori sono 10, di cui 4 bambini, tutti estratti, tutti vivi. E adesso vedevo la notizia di aggiornamento che oltre al bambino, che è il figlio del primo superstite che già oggi era stato estratto e aveva raggiunto il padre, altri 3 bambini sono arrivati adesso all'ospedale di Pescara. Erano in totale 4 i bambini che erano ospiti dell'hotel, sono tutti salvi. E poi c'è anche questa notizia della Commissione Grandi Rischi, dice questa del terremoto è una sequenza che continua ed è presto per rilassarsi, lo dice il presidente della Commissione Grandi Rischi Sergio Bertolucci riferendosi alla sequenza sismica iniziata il 24 agosto e che il 18 gennaio ha causato appunto 4 terremoti di magnitudo superiore a 5. Per i sismologi potrebbe purtroppo anche essere in aumento. Però adesso ci spostiamo per un po' su invece Trump, sul suo insediamento. È iniziata la parata presidenziale, i Trump verso la Casa Bianca, ma sentiamo un passaggio del giuramento. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Insomma, giurare ha giurato Sergio Nava. Poi abbiamo in collegamento Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 dagli Stati Uniti, che saluto. Ciao Marco. Buonasera. Quindi vedevamo che la parata... L'hai fatta partire tu, Roberta, proprio sì. Perché proprio in questi istanti l'auto blindata di Donald Trump si sta muovendo dal Campidoglio. Lo vediamo attraverso i circuiti internazionali. Quindi da Capitol Hill, come esatto, si chiama il Campidoglio. Esatto, e percorrerà i 2,4 chilometri che prevalentemente su Pennsylvania Avenue porteranno Trump e il vicepresidente Pence a raggiungere la Casa Bianca, e sarà la loro nuova casa per i prossimi 4 anni almeno. Infatti oggi c'è stato, oggi 20 gennaio, il giuramento di Trump e del suo vice, ultima uscita dalla Casa Bianca degli Obama, Michelle e Barack. Come, intanto poi ne parliamo anche con Marco, un po' come sono stati i riti, i saluti. Abbiamo visto anche questo pacchetto, questo regalo che Melania, moglie di Trump, aveva porto a Michelle sulle scale lì del... Creando un poco imbarazzo perché non sapevamo più come fare la foto. L'ha spostato prima su un fianco. E alla fine poi ha risolto Barack Obama, che l'ha portato in casa e l'ha lasciato lì. È stato come anche divertente. Come infatti tra coppie, diciamo, tra virgolette, normali e ordinarie. Invece andando al succo, il discorso, le parti importanti, quali sono state? Lui intanto ha detto io vi farò rivivere il sogno americano, no? Trump, come se volesse risollevare l'America da qualcosa che l'aveva È stato un discorso, a mio parere, poi magari sentiamo anche l'opinione di Marco dagli Stati Uniti, sicuramente di puramente populista allo stato puro sotto certi aspetti, ma non voglio dare un'accezione negativa, però lo voglio fotografare. Si è rivolto al popolo, ha detto il popolo torna qui. L'America è vostra. L'America è vostra, non sono io il presidente, siete voi, diciamo, che venite qui alla Casa Bianca. E quindi ha usato immagini molto populiste, ha usato un'accezione estremamente populista, ha usato anche espressioni forti, perché quando ha detto metterò fine alla carneficina dell'America, no? Lasciando intendere che questo sia una specie di anno zero, cioè di ritiro dei soldati, in questo senso. No, io l'ho intesa più come il fatto che lui ha dipinto poi anche l'America, nel suo discorso di 16 minuti ha dipinto un'America praticamente prostrata, dove il crimine è in aumento, dove le infrastrutture stanno crollando, dove le fabbriche chiudono, e lui dice: io invece vi darò la terra promessa. No, non ha usato questa espressione, ma il qualche... sogno americano. E... esatto. Quindi ha parlato di, non so, che aumento dell'occupazione anche, no? Quanti milioni di posti di lavoro ha detto? Insomma. Ha usato, come dire, ha dato, è stato bravo anche diciamo nello slogan, perché ha detto le parole d'ordine saranno: compra americano, assumi americani. Però, allora, se, per chi non ha ascoltato il discorso, è stato un discorso completamente rivolto all'interno, completamente legato all'America, quasi come se l'America fosse un'isola nel mondo. In questo, insomma, è stato totalmente isolazionista. Ed è quello che aveva anche un po' annunciato in campagna, sì, elettorale, alla fine. Quindi in questo discorso, se qualcuno si aspettava un Trump più istituzionale, lo è stato nei toni, ma non lo è stato nel messaggio, nei contenuti. Marco Valsania, sei d'accordo, Marco? Sì, sostanzialmente sì, ha dipinto l'America come, ecco, un'isola, forse la parola giusta, che è un'isola felice, un'isola infelice, visti i toni del discorso. Diciamo, ormai usare gli obiettivi senza precedenti per Trump è diventata, no, diciamo, per definire le prese di posizione, anche così la retorica di Trump è diventata quasi un'abitudine. Ma l'America al primo posto, ha detto, no? L'America al primo posto. Esatto, che ha rari paragoni, non, diciamo, per il contenuto, ma soprattutto per i toni, perché normalmente i discorsi di inaugurazione cercano di lasciare alle spalle quelle che sono le ferite delle campagne elettorali, di puntare, di dare un'immagine di unità, di dare anche un'immagine di ottimismo. Questo è accaduto anche all'uscita di altri periodi di crisi, diciamo. Si dice che Trump abbia scritto di proprio pugno quel discorso, il discorso di oggi, che si sia anche in qualche modo ispirato a Ronald Reagan. Ecco, senza voler fare alcun panegirico di Ronald Reagan, ma diciamo che l'ottimismo conservatore reganiano, diciamo che deve essergli rimasto sulla pagina scritta a Trump, perché il discorso è parso, come ricordavate anche voi, insomma, soprattutto un'invettiva, un'invettiva economico-sociale, quasi per dare voce, diciamo, a una specie di generica rivalsa molto. Un po' protezionistica, diciamo. Marco, ti sentiamo un po' male. Intanto aggiorniamo con chi sta viaggiando, con la viabilità, e poi ritorniamo insieme. E anche su questo tema, le ascoltatrici e gli ascoltatori, se vogliono intervenire, abbiamo tempo sino alle 23. Anche ritorneremo sulle vicende del Gran Sasso. 800 24 0024. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Siamo sempre insieme. Adesso lascio un attimo il discorso di Trump e il suo insediamento con Marco Valsani e con Sergio Nava per qualche istante, perché ci colleghiamo e ritorniamo invece sulle emergenze italiane con Corrado Clini, ex ministro dell'Ambiente del governo Monti. Buonasera, Clini. Buonasera. Senta, lei, a proposito delle polemiche di questi giorni, ha difeso l'ex capo della Protezione Civile Bertolaso, che, diciamo, era stato piuttosto duro con i soccorsi, con la Protezione Civile, ha detto che praticamente non eravamo attrezzati, non hanno fatto bene il loro mestiere. Lei ha detto che effettivamente non eravamo pronti a queste emergenze, seppure appunto eventi straordinari che si sono aggiunti l'uno all'altro. Guardi, intanto Bertolaso non ha bisogno della mia difesa. Io non ho difeso Bertolaso per entrare nella polemica, ho voluto mettere in evidenza due aspetti che peraltro noi abbiamo chiari da molto tempo. Il primo, che siamo un paese molto vulnerabile a eventi climatici che vengono chiamati estremi, perché sono diversi nell'intensità da quelli a cui eravamo abituati nei decenni precedenti, ma che pur essendo estremi non sono più così rari, perché se lei si guarda un attimo, se noi ci guardiamo un attimo la lista degli eventi climatici degli ultimi 20 anni, sono diventati più frequenti in diverse regioni d'Italia, dalle inondazioni alle frane, con dietro tutto il carico di danni economici, di vittime, eccetera. Noi abbiamo esattamente il quadro di una situazione che richiede un'organizzazione del territorio, di difese attive del territorio, diversa da quella che era stata programmata per un regime climatico che era un altro. Insomma, Clini, lei che cosa farebbe lei, Clini? Guardi, quello che io farei, l'avevo scritto e portato al CIPE nel dicembre del 2012, il CIPE l'aveva approvato. Noi abbiamo bisogno di un programma stabile di protezione del territorio, che vuol dire infrastrutturare il territorio per rispondere, per essere pronto a rispondere a queste emergenze, che vuol dire da un lato ridefinire alcuni dei presidi tradizionali, per esempio le fognature. Le fognature sono tarate su regimi di pioggia diversi da quelli attuali. Una bomba d'acqua, come sappiamo, mette in crisi una città perché i sistemi di raccolta dell'acqua non sono adeguati a questa tipologia di piogge. Ma questo vale anche per la neve. Voglio ricordare che quattro anni fa, sempre nel centro Italia, un po' più a nord, ma sempre nelle Marche, c'era stata una nevicata straordinaria che aveva messo in crisi un territorio. Perciò il primo tema è infrastrutturare il territorio, il secondo è fare la manutenzione, nell'Appennino in particolare, la manutenzione dei boschi, la manutenzione dei corsi d'acqua, la manutenzione delle strade, che vuol dire attività concrete, vuol dire persone che ci lavorano, che sono lì. Invece questi territori sono purtroppo progressivamente abbandonati. Noi sappiamo che il nostro Appennino, dalla Toscana fino alla Calabria, è prevalentemente una zona con popolazione molto scarsa, con attività molto scarse e soprattutto con una scarsissima manutenzione. Questo è il primo elemento, cioè non è una questione di polemica su come sono andati i soccorsi, è prendere atto che questa emergenza richiama ancora una volta l'esigenza di una misura che poi serve anche per la crescita del nostro paese, perché è una misura che richiede investimenti in opere, ma richiede molto investimenti in capitale umano. Quando io presentai questo programma alla Commissione europea e dissi: guardate che questa è una misura che serve alla crescita dell'Italia, io avevo calcolato più o meno 40 miliardi di euro in 12 anni, questa misura deve stare fuori dal patto di stabilità, perché è una misura che serve per generare valore aggiunto e ridurre i danni economici. Ecco, posso dire, non voglio fare polemiche, che però siamo ancora molto lontani, nonostante le iniziative che erano state individuate in quel documento che era stato approvato dal CIPE, quello che si è mosso è molto lento e soprattutto corre dietro sempre alle emergenze. La seconda cosa invece riguarda la gestione delle emergenze. Nel momento in cui noi abbiamo un territorio già così fragile perché ha avuto il terremoto, e sappiamo, perché lo sappiamo prima, perché le previsioni avevano già detto che ci sarebbero stati eventi climatici importanti anche dal punto di vista della quantità di neve che sarebbe caduta, il territorio deve essere organizzato in maniera tale da limitare i danni, certamente non prevenire le nevicate, che non è possibile, ma limitare però dice limitare i danni. Sì. Chiarissimo, e da questo punto di vista non è un problema della protezione civile che devo dire stanno lavorando. È politico, sta dicendo, e quindi di organizzazione, di risorse, di finanziamenti, di un'organizzazione insomma diversa e anche di una cultura del rischio, come si diceva, diversa. Corrado Clini, io la ringrazio, ci dobbiamo lasciare a questo punto, speriamo di fare tesoro anche di queste esperienze, di queste disavventure così drammatiche. Grazie ancora. A lei. Grazie Clini. Buona serata. Poi ci risentiamo tra poco, ritorniamo ancora su Trump per le vostre telefonate 800 24 0024, dopo anche con Marco Varsania. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Sono le 22. GR 24, il Sole 24 Ore. A questo punto le notizie principali, a questo punto della giornata, sono il miracolo all'hotel Rigopiano, una decina di sopravvissuti dell'hotel estratti dopo oltre 40 ore, 4 i bambini tutti in salvo, quindi i bambini ospiti, ci sono ancora superstiti sotto le macerie dell'hotel spazzato via dalla valanga, altri 5 o 6 persone potrebbero essere estratte vive nelle prossime ore, continua infatti senza sosta il lavoro dei soccorritori. Le previsioni dei sismologi: non sorprenderebbe se nelle zone colpite dai terremoti del 18 gennaio si verificasse, dicono, una scossa di intensità pari o superiore a quelle avvenute. Intanto c'è l'SOS Valanghe, in alcuni comuni ordinanze di evacuazione, lo ha detto il capo della Protezione Civile Curcio facendo il punto sulla situazione degli interventi. La decisione del governo per l'emergenza e lo stato di emergenza già indicato per le zone colpite da terremoto e maltempo è stato esteso su proposta del presidente Gentiloni. Il governo quindi ha inoltre autorizzato un ulteriore primo stanziamento di 30 milioni di euro per far fronte esclusivamente ai primi urgenti interventi di soccorso legati alla fase di emergenza. Stati Uniti, Trump ha giurato, è il 45esimo presidente d'America e promette: vi restituirò il sogno americano. Siria, l'ISIS ha distrutto il proscenio dell'antico teatro romano di Palmira nella Siria centrale e il tetrapilo, una struttura colonnata sempre nel sito archeologico patrimonio dell'UNESCO. Il ministro dei beni culturali Franceschini annuncia che il G7 della cultura a Firenze il 30 e il 31 marzo sarà l'occasione per condividere azioni concrete contro un crimine odioso come la devastazione della storia e delle testimonianze di antiche civiltà. Narcotraffico: Joaquin Chapo Guzman, fondatore del cartello di Sinaloa e uno dei narcoboss più temuti e potenti del Messico, è stato estradato negli Stati Uniti, dove è ricercato dalla giustizia di almeno due stati e dove rischia la pena di morte. Comparirà in un tribunale federale di Brooklyn. Adesso ci prendiamo giusto una pausa per la pubblicità e poi torniamo insieme e proseguiamo con questo speciale sino alle 23. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, proseguiamo ancora un'ora quindi in questa edizione speciale di Effetto Notte, partita alle 21, avanti fino alle 23, perché ci sono due grandi notizie, due grandi fatti che stiamo seguendo. Allora, naturalmente sempre l'emergenza nel centro Italia, in particolare in alcune regioni, e soprattutto la vicenda dell'hotel Rigopiano alle pendici del Gran Sasso in Abruzzo, con questa bellissima notizia che è arrivata oggi e altre ne sono seguite, cioè di altri ospiti e personale, insomma, dell'albergo, che sono stati tratti in salvo. Si parla adesso, i numeri ancora non sono definitivi, però di una decina di persone vive, tra cui 4 bambini che erano ospiti. C'erano solo 4 bambini in questo albergo e per fortuna sono tutti salvi, sono stati tutti portati in ospedale per accertamenti, insomma sembra che le condizioni siano buone. E poi si parla prudentemente del resto delle persone, perché alcune sono già fuori, sono state portate fuori, alcune invece sono ancora in contatto, in comunicazione, loro ancora intrappolate, insomma, tra le macerie e la neve con i soccorritori. Quindi per dare numeri definitivi probabilmente bisogna aspettare ancora qualche ora, però le buone notizie ci sono e speriamo che possano continuare a esserci. Anzi, ci colleghiamo subito con il nostro Daniele Morini. Daniele. Sì, ecco, dovrebbero essere arrivati proprio in questi minuti 3 bambini che si aspettavano qui all'ospedale. Noi non siamo riusciti ad intercettarli, anche perché ovviamente tengono le telecamere e i cronisti a una debita distanza, naturalmente, anche visto un po' il caos che c'è stato oggi quando alcuni familiari hanno fatto irruzione appunto durante la conferenza stampa per chiedere notizie dei propri congiunti, ma naturalmente i parenti con cui abbiamo avuto modo di parlare, che attendevano soprattutto i tre bambini, erano veramente sorridenti, direi quasi euforici, insomma. Anche perché poi, come confermano dall'ospedale, le persone che arrivano, che sono arrivate in queste ore, hanno tutte condizioni di salute abbastanza buone, qualche sintomo da ipotermia, ovviamente visto il freddo, ma qualche disidratazione, ma molto leggera. Da quello che ci dicono qui in ospedale, le persone vengono trovate sotto neve e macerie, vestite pesantemente, evidentemente erano pronti, come si è detto più volte in questi giorni, a lasciare l'albergo, no? Aspettavano l'albergo. Lo spazzaneve, sì. Esatto, e in alcuni casi, come nel caso delle cinque persone trovate questa mattina nei vani cucina, si erano attrezzate in qualche modo per riscaldarsi, accendere un piccolo fuocherello, eccetera, ed è stato proprio il fumo, l'odore anche della combustione che ha guidato i cani dei soccorritori per arrivare fino a queste camere che in qualche modo conservavano e proteggevano le persone lì sotto. Peraltro ci dicono sempre i soccorritori che la stessa neve crea una sorta di effetto di isolamento termico, no? In realtà che protegge dai rigori che sono all'esterno, un po' l'effetto igloo, diciamo, che si registra ai poli. E quindi ecco, grande, grande speranza, adesso si attenderanno durante la notte anche le altre cinque persone con cui i soccorritori speriamo presto li raggiungano, con cui stanno parlando nelle ore della serata, di questa serata, insomma, sono in contatto con loro, aspettiamo che ci siano notizie di arrivi anche in questo senso. Dal punto di vista medico, il prossimo punto stampa è convocato per domattina alle 11, quando ci daranno tutti gli aggiornamenti, quindi sugli arrivi e le cure prestate questa notte. Grazie Daniele Morini, grazie per il tuo lavoro, Daniele. Ciao, grazie. Ciao Daniele. Grazie. E ancora tra pochissimo ci colleghiamo con il direttore del giornale Il Centro, che è anche, diciamo, il centro, il punto di informazione lì territoriale, in particolare dell'Abruzzo, ma ci sono ancora molte telefonate a cui sono riuscita a dare poco spazio finora, però 800 24 00 24, vi dicevo, poi l'altra grossa notizia che seguiamo in questo speciale è l'insediamento ufficiale del 45esimo presidente americano Donald Trump, ma ci ritorniamo tra poco. Invece vorrei sentire ancora su l'emergenza del Centro Italia. Massimo da Milano? Ciao Massimo. Buona serata. Buona serata a te. Niente, volevo intervenire su un'esperienza che ho vissuto. Essendo animatore clown per i bimbi, sono stato chiamato per ben due volte dalla Protezione Civile a operare dopo la prima emergenza delle prime scosse nelle aree terremotate. Ho visto veramente che gli aiuti sono arrivati veramente dal basso, dalla gente che istintivamente si è sentita ad aiutare questa gente che ha avuto questa sfortuna di cadere addosso in questa maniera. E i riscontri anche parlando con le persone nelle aree terremotate, dicono che esserci un gran movimento di persone che arrivano, però tutto viene bloccato dai due binari che ci sono in questa Italia un po' strana, binari di quelli che dell'istinto delle persone che aiutano e il binario delle carte che si fermano negli uffici dopo che, per esempio, i 28 milioni di euro dei messaggini che li raccolti. Sì, certo, dalla Protezione Civile ne parlavamo nei giorni scorsi, ma ci deve essere evidentemente poi un via libera definitivo a livello politico. Non so se è solo burocrazia o se stanno capendo bene in che direzione, come spenderli, eccetera, Massimo. Quindi è una domanda che ho fatto giorni fa a un politico, se non sbaglio, un responsabile della Protezione Civile, mi pare a livello nazionale, e diceva adesso stiamo ancora aspettando, bisogna che ci sia una decisione del governo su questo. Massimo, comunque è importante anche il tuo lavoro e probabilmente anche questi bambini, seppure già la loro reazione è stata molto positiva, perché ci raccontava Daniele Morini che erano entusiasti, che insomma anche scherzavano, però magari può essere una reazione di un primo momento. Immaginatevi che cosa si portano dentro da questa esperienza terribile, sia quella del terremoto sia quella di rimanere sotto una valanga, no? Quindi pensi che andrai adesso, sei stato chiamato ancora, Massimo, in questi giorni? Sì, io tornerò, perché abbiamo attivato con questi miei amici di cui è partito questo aiuto istintivo. Dovevo partire con la mia macchina e basta, perché avendo la mansione da animatore clown, la prima volta sono col passaparola, siamo riusciti ad organizzare la raccolta di un tir con 29 bancali di prodotti per igiene personale. Il cuore della gente sta veramente grande. E abbiamo attivato, e diventerà ufficiale da lunedì prossimo, una pagina Facebook, si chiama Un abbraccio che non trema, perché vogliamo continuare veramente dal basso ad aiutare questa gente e non lasciarli assolutamente soli. Poi non ci interessa se si fermano, se la burocrazia si fermerà o farà il suo corso che deve fare. Questa gente non va lasciata sola. Grazie. Un abbraccio che non trema. Un abbraccio che non trema anche a te. Grazie, Massimo. Poi ci sarà Marco da Prato, però prima Primo Di Nicola, appunto direttore del Centro, il quotidiano Il Centro. Primo, ciao, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Primo, se tu da appunto direttore di questo giornale dovessi così in sintesi un po' raccontare quello che hai vissuto, che hai visto, le riflessioni che hai fatto in questi giorni. Ma devo dire, come tutti, è stata un'autentica altalena tra, come dire, il dolore per quello, la tragedia che è stata annunciata, la speranza comunque che in qualche modo fosse un falso allarme, la delusione per tutte le difficoltà per i soccorsi che noi qui abbiamo constatato, ho constatato personalmente, perché all'arrivo della notizia del crollo della slavina, noi siamo partiti qui da Pescara la sera di mercoledì e ci siamo ritrovati incolonnati poi nel corso della notte lassù in cima nell'ultimo tratto della strada che portava appunto al resort. Poi ci siamo fermati, ci siamo, come dire, tolti da questo convoglio per evitare, come dire, di mettere in difficoltà i soccorritori e ci siamo fermati, abbiamo per tutta la notte seguito l'operazione di salvataggio, la grande difficoltà con la quale la turbina andava avanti insieme ai camion dei vigili del fuoco, e assistendo anche, come dire, ai piccoli gesti che comunque sono il grande coraggio di questo paese, dell'apparato militare, il CAI, il soccorso alpino, i volontari. Abbiamo visto gli uomini nel cuore della notte, davanti alle difficoltà della turbina, indossare, mettere gli sci ai piedi e partire. Sono stati poi loro in effetti ad arrivare per primi nel cuore della notte al resort di Ricopiano. Quindi sentimenti altannellanti, devo dire, con in questo momento anche la speranza che riaffiora, perché mentre voi parlavate di numeri, noi qui abbiamo delle notizie, diciamo, ancora positive, perché c'è abbiamo notizia del ritrovamento di altre persone di cui abbiamo anche i nomi, sono quattro. I soccorritori dicono appunto che ci sono queste quattro persone che ancora non vengono estratte dall'edificio, ma che comunque sono vive, e anche i familiari sembra siano stati avvertiti. Anche questo ci dà speranza anche per la notte, per domani, e chissà che il miracolo non continui a ripetersi una alla volta, magari le persone vive, avendo trovato rifugi in bolle d'aria, così come vengono definite tecnicamente, che insomma, ecco, fino a domani la speranza, ecco, continua a crescere man mano che arriva qualche notizia positiva. Primo, tra l'altro, tra poco daremo spazio ai nuovi ascoltatori, sì. Lo ricordo, il numero verde 800240024. Non so se hai visto Charlie Hebdo, la rivista satirica francese, sì, che tutti abbiamo difeso quando c'è stato quell'attacco terribile, sì, criminale, sanguinoso, eccetera. Di nuovo è tornata a ironizzare sulle disgrazie dell'Italia, con questa vignetta con la morte sugli sci, al posto degli sci c'erano delle falce, diceva la neve è arrivata in Italia e non ce n'è per tutti. A parte che io non capisco dove sta la satira, il sorriso, su cosa bisogna ridere o sorridere. Temo che alla fine, pur da difendere, siano un gruppo di squinternati che non hanno ancora capito cos'è la satira e cos'è l'ironia, mi viene da pensare. Ma io da anni ho smesso di stare a fare discorsi seri sulla satira, quando sappiamo tutti che, come il giornalismo delle volte, per vendere si fa clamore, così anche su notizie inesistenti, e definiamo quella, diciamo, questo tipo di giornalismo, un giornalismo spazzatura delle volte, spazzatura, di cattivo gusto. Sì. Neanche così sciacallaggio, esiste. Proprio spazzatura, no, perché non si capisce che cosa sono è. Delle autentiche provocazioni di chi vuole dare segnali di esistenza, in questo, sì, questo caso artistica. Io penso che anche su una tragedia così si possono fare vignette, si possono, come dire, cioè si può lavorare di satira, ma come in tutte le cose, il buon gusto, la buona educazione, certo, il senso della misura. Quindi non mi vorrei, come dire, tornare dai tempi del male, la famosa rivista, sì, sì, degli anni degli anni 70, i quali, come dire, provocavano, ma rimanevano in un ambito di provocazione politica, ma sicuramente nei limiti del buon gusto. C'era almeno quella finezza, esatto, di pensiero, che qui mi sembra che manchi totalmente. Ma perché, quegli autori avevano anche dei contenuti da esprimere, secondo me. Qui c'è la totale inconsistenza, mi secondo pare di capire. Secondo me esatto, sì, esatto, sì. Cioè, quando mancano gli argomenti culturali di riflessione, si va, come dire, si parte per la tangente con la cosa più, diciamo, provocatoria, pur di far parlare di sé. Infatti, questa è la mia impressione. Sì, sì, una morte incappucciata con due facce al posto delle, sì, racchette, che recita: Italia, la neve è arrivata, non ce ne sarà per tutti, che manco si capisce cosa vogliono dire. Comunque, ma insomma, è come ridere a un funerale. Infatti, proprio da deficienti, se vogliamo dirlo proprio fuori dai denti. Primo Di Nicola, io ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. E grazie al Centro, il quotidiano grazie Il Centro. Grazie, voi. Primo. Grazie davvero. Ciao. Marco da Prato, all'800240024. Buonasera, buonasera, salve. Ciao. Mi unisco prima di tutto, ciao a tutti voi e a tutti i radioascoltatori, mi unisco prima di tutto ai commenti che stavate facendo riguardo alla vignetta di Charlie Hebdo. Io sono un geologo, lavoro all'Istituto Geofisico Toscano e da 20 anni ci occupiamo di rischio sismico e monitoraggio sismico in Toscana. E quindi siamo in qualche modo coinvolti in prima linea ogni volta che c'è qualche catastrofe che colpisce la nostra regione, ma anche a supporto del lavoro dell'Istituto Nazionale di Geofisica in altre regioni, in altre zone, anche in questo caso anche nell'area di Amatrice e dell'Aquila. Certamente può essere fatto sempre di più, le polemiche in parte sono anche giustificate, giustificabili, perché la protezione civile è un settore in cui non si investe mai abbastanza. Il problema grande è anche e comunque la risposta dei cittadini. Io lo faccio di mestiere e iniziative come Terremoto, Io non rischio, che il Dipartimento di Protezione Civile sta portando avanti da anni, questo è per fare un esempio, spesso vengono snobbate, comunque prese sotto gamba, e talvolta si viene tacciati di essere dei menagrami, di portare sfortuna, di parlare appunto di cose che no, in fondo non succedono. E questo perché manca la sensibilità culturale nel nostro paese, nonostante le grandi tragedie nazionali. E manca proprio a livello di educazione civica, di cultura civica, e forse manca anche perché abbiamo perso negli ultimi anni il vizio, voglio chiamarlo in questo modo, di partire dalle scuole, anche dalle scuole elementari, dai più giovani, nel cercare di inculcare quelli che sono gli atteggiamenti, il comportamento da tenere di fronte a determinati eventi, a determinate situazioni. Poi la protezione civile è un po' come in altri settori, un settore dove quando non succede niente i soldi investiti sembrano buttati via, quando succede qualcosa i soldi investiti non sono mai abbastanza. C'è un po' questa dicotomia. Io mi metto nei panni di Curcio, di Fabrizio Curcio, di tutto il Dipartimento di Protezione Civile. Si trovano sicuramente a gestire in questo momento una vera e propria tragedia. E tanti fronti, no? Su tanti fronti, sì, perché e non si può dire, infatti, però ecco, nessuno di questi fronti è un fronte sconosciuto. Il terremoto, lo sappiamo. Siamo un paese sismico. Siamo un paese sismico. Io recentemente ho fatto un intervento pubblico sui giornali qui in Toscana sul rischio che corriamo guardando la probabilità di che un evento avvenga nelle nostre zone, nel Mugello, in Carfagnana. E ho scatenato la parte alta della Toscana. Sì, no, hai ragione Marco, perché tra l'altro siamo un paese sismico, siamo un paese dove ci sono le frane, le alluvioni, dove ci sono le nevicate, no? E quindi hai ragione, continuiamo a dircelo da tanti anni. Ma secondo te da Zamberletti in poi, che è considerato il padre, no, della protezione civile, ci sono stati dei grossi passi avanti? O... Ci sono stati grossissimi passi avanti, e una cosa che non possiamo certamente rimproverare negli ultimi anni ai professionisti del settore è quello di non aver affinato quanto più possibile quelli che sono i modelli di intervento, quella che è in qualche modo la pianificazione proprio dell'utilizzo anche dei mezzi a disposizione, che non sono moltissimi. Cioè, è cambiato tutto moltissimo, è diventata capillare la possibilità di intervenire, anche con la legge che spostò le competenze e le responsabilità sui sindaci, oltre che sui prefetti. Sono stati tanti miglioramenti, soprattutto sulle piccole calamità. Però c'è ancora molto da fare. Io continuo a insistere sicuramente a livello culturale, perché siamo in un paese in cui ancora, anche oggi, quando abbiamo la possibilità di ristrutturare la nostra casa, e questo è un male anche che riguarda me in prima persona, come tante persone che conosco, preferiamo magari spendere un po' di più nella mattonella o nel sanitario, alla moda, così che, sì, non, che non magari nella messa in sicurezza. E al di là del terremoto, che sappiamo appunto quali sono le zone a più alto rischio, anche la neve in questo caso, nel Gran Sasso dei Sibillini sono aree dove ci sono tra i maggiori accumuli addirittura a livello europeo di neve. È un po' più attrezzati si potrebbe essere, in effetti. Marco, ti ringrazio moltissimo per la tua testimonianza e anche per la competenza, insomma, con cui hai spiegato una serie di cose. Grazie Marco. Io, prima di dare la linea a Vincenzo, al nostro Vincenzo Miglietta, c'è ancora Massimo da Parma, l'800240024. Massimo? Sì, sono qui. Ciao Massimo. Buonasera a tutti. Salve, buona serata. Io in questi giorni mi sono posto alcune domande. Probabilmente ho avuto delle sensazioni che forse qualcosa non fosse partito in tempo, perché io vedo dalle mie parti, quando nevico, ho fatto più volte anche il valico verso Firenze, da Bologna a Firenze, io mi trovavo degli sparti neve in coda, che partono non quando c'è mezzo metro di neve, ma partono quando ci sono 10 centimetri di neve, e mi chiedo se questo è stato fatto. Forse mancano i mezzi, sono mancati i mezzi, però mi sento parlare di frese che devono portare via dei metri di neve, ma la neve non è che viene giù un metro alla volta. Però mi chiedo, ma perché non accade come nelle nostre parti, che vengono dati gli appalti ai contadini o chi possiede delle macchine agricole che possono montare la benna per spostare la neve, no? Quindi attivare delle macchine atte a funzionare come spartineve. E qui dalle nostre parti vengono dati gli appalti agli agricoltori, ognuno dei quali ha un territorio da tenere pulito, ecco. Qui sono 15 giorni che nevica in questi posti, e le previsioni mettono sempre brutto tempo, e queste abbondanti nevicate in centro Italia, dico, mancano i mezzi, si chiede un aiuto al Trentino, che sicuramente è attrezzato, alla Val d'Aosta, che è sicuramente attrezzata, alla Lombardia, che è attrezzata, dove tutti gli anni cadono dei 2 metri di neve. Questa volta sicuramente, Massimo, bisogna dire, l'abbiamo ripetuto tante volte, che sono state nevicate eccezionali, perché si dice che dal 1960 sono cadute, leggevo mi pare, 20 milioni di tonnellate di neve, una cifra folle sull'Abruzzo, per esempio, e non mi capacitavo neanche di quanta potesse essere, Massimo. Quindi, però, giustamente ci poniamo tutti tante domande quando succedono queste tragedie, quando poi, anche quando non ci sono le tragedie, tanti disagi che bloccano parte dell'Italia. Vediamo di uscirne il prima possibile e di capire davvero da dove si può ripartire per evitare che si ripetano di nuovo, perché effettivamente la neve, se presa e gestita in tempo, forse si può anche affrontare. Grazie Massimo. Intanto c'è il nostro Vincenzo Miglietta. Ciao Vincenzo. Buonasera ai nostri ascoltatori. Che viene diretto oggi da Amatrice, dove sono state distribuite le prime casette. Però se tu mi permetti, Vincenzo, ancora un po' di pazienza, visto che avevo promesso anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori, per i quali ricordo c'è sempre il numero verde 800 24 00 24, vorrei far sentire un pezzo di intervista che Raffaella Calandra ha fatto al procuratore di Pescara, che ha aperto appunto un fascicolo per quello che è successo a Rigopiano, all'hotel Rigopiano, un fascicolo per disastro omicidio colposo ha cominciato ad ascoltare i sopravvissuti, ad acquisire degli atti, e l'inchiesta adesso andrà in tre direzioni. Ce lo spiega Cristina Tedeschini, che è reggente, procuratrice reggente, intervistata appunto da Raffaella Galandra. Queste persone che stavano lì quando è arrivata la valanga, ci sono delle condotte omissive, negligenti, imprudenti, per le quali queste persone che la mattina del 18 se ne volevano partire non sono riuscite a partire? Poi arriva la valanga. Da questo momento in poi, fino all'arrivo dei soccorsi, io ho da acquisire come sono andate le cose. Poi ce n'è un altro, intorno al 14 di gennaio, dove viene diramato un'allerta valanghe. Al top la domanda è: il sistema ha reagito nel modo in cui doveva reagire? Forse quell'albergo non doveva essere aperto, visto l'allarme valanghe. Potrebbe anche essere così. Poi c'è un terzo e ultimo tema di indagine, riguarda gli interrogativi intorno all'esistenza fisica di quell'albergo lì. Hai sentito, Vincenzo? Ecco, dicevamo, invece tu vieni da Amatrice, che è stata il simbolo del terremoto del 24 agosto scorso, no? Della distruzione, certo, della disperazione, e anche di un paese che si è un po' spopolato. Hanno fatto richiesta per le casette, mi pare in 36 richieste ci sono state per le casette sostitutive, insomma, delle abitazioni che sono inagibili, e oggi tu eri lì, ne sono state estratte 25. Sì, sì, c'era un notaio... Proprio perché le richieste erano 36 e le prime casette disponibili sono 25. Quindi, e poi alla fine 11 mancanti potevano anche esserci tutte contemporaneamente da agosto a questa parte, no? Ma Roberta, si potrebbero fare tanti ragionamenti e evidentemente con tante spese che ci sono in generale, evidentemente è il primo pensiero al quale noi arriviamo che forse 11 casette in più si potevano trovare facilmente. Però dato di fatto che è stato fatto questo sorteggio proprio perché fosse una cosa imparziale, e Amatrice riparte da queste casette, ha detto il sindaco Pirozzi, è un numero quindi evidentemente non sufficiente per un paese che al suo massimo contava almeno 3.000 residenti, ma è un simbolo della ripartenza. Quindi Pirozzi oggi ha voluto fare comunque queste assegnazioni proprio per dare un segnale di speranza. Dall'altra parte il sindaco però ha puntato il dito contro la burocrazia che sta bloccando, a suo dire, la ricostruzione del paese. Ci sono tonnellate di macerie ancora lungo le strade principali del paese. Ho potuto vedere anch'io come alcune zone proprio di Amatrice non sono state ancora portate via, e quella è una priorità, perché se non si portano via quelle macerie non si possono creare le aree adatte per ospitare le altre casette, dove si spera torneranno i cittadini di Amatrice, che evidentemente adesso non hanno giustamente voglia di tornare, perché se solo 36 sono state le domande, evidentemente tutte queste persone adesso non hanno voglia di tornare in paese. Senti, lo vogliamo sentire allora un piccolo passaggio di Pirozzi, del sindaco di Amatrice, Vincenzo? In tempo di guerra servono procedure di urgenza, non servono procedure standard. In tempo di guerra bisogna decidere, chi decide affiancato dalle migliori eccellenze italiane, perché stiamo in ritardo sullo smaltimento delle macerie, sugli abbattimenti, su tutto quello che è la vita quotidiana. Oggi è importante dare una risposta alla vita quotidiana, perché siamo stressati, 4 terremoti, la gente ha fiducia nel futuro, ma oggi vive di presente. Insomma, abbiamo sentito un po' esasperato, non, comprensibilmente, no, Vincenzo Miglietta? Se dice siamo in tempo di guerra e ci vogliono interventi straordinari. Tempo di guerra proprio perché ha ricordato, ma è la verità, La neve degli ultimi giorni ha colpito anche Amatrice, Campotosto, pochi chilometri, certo. E fino a questa mattina era ancora un paese isolato. Ho visto io oggi arrivare ulteriori mezzi scansaneve, le famose turbine dell'esercito e poi le scosse che continuano. Ve ne sono state oltre 45.000 dal 24 agosto scorso, per cui immaginiamo come le poche persone rimaste ad Amatrice riescano a vivere, e anche quindi le preoccupazioni evidenti del sindaco di fronte a quella che lui parla, una burocrazia cieca che evidentemente non si rende conto dell'urgenza che vi è. Grazie Vincenzo Miglietta, ciao Vincenzo. Grazie. Ciao Vincenzo. E adesso vedo il quarto bimbo trasportato all'ospedale di Pescara dopo essere stato estratto dalle macerie, hotel Rigopiano, e Samuel di Michelangelo, 7 anni, figlio del poliziotto di origine abruzzese che vive a Osimo. Quindi ormai è certo, è comprovato che i 4 bambini, c'erano solo 4 bambini nell'hotel Rigopiano, sono tutti in salvo. Poi in totale sono 10 le persone che sembrano, insomma, che siano state estratte. Bisogna capire se sono effettivamente tutte e 10 già fuori oppure no. L'abbiamo detto all'inizio che i numeri ancora sono un po' incerti e quindi si fa difficoltà anche a livello di informazione a darli con precisione. Gli stessi psicologi e sanitari hanno detto: cercate appunto di non dare notizie imprecise, perché ogni volta è, insomma, un trauma, un problema. Un problema psicologico per i familiari che stanno aspettando di avere notizie di altre persone che sono sotto le macerie. Allora direi a questo punto di prenderci una pausa. Il numero per voi ancora per mezz'ora è 800 24 00 24. Poi man mano ci spostiamo sulla parata di inaugurazione dopo l'insediamento del presidente Donald Trump. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi in questa edizione speciale di Effetto Notte, partita alle 21, adesso abbiamo ancora circa poco meno di mezz'ora, fino alle 23, perché abbiamo parlato lungamente ancora doppia emergenza in Italia tra tonnellate, vedevo la conferma, 20 milioni di tonnellate di neve sono cadute solo sull'Abruzzo, quindi doppia emergenza questa e il terremoto e quello che sta accadendo all'hotel Rigopiano, spazzato via, lo sapete, da questa enorme valanga. Però oggi sono state tratte in salvo diverse persone, sicuramente tutti e 4 i bambini che erano ospiti dell'hotel, e questo ha naturalmente rinvigorito un po' le energie dei soccorritori, che si sentono ancora più intenzionati a trovare altre persone. Pare che ce ne siano altre che hanno dato segnali di vita sotto la neve, sotto le macerie, quindi continueranno a scavare. Però adesso spostiamoci per qualche minuto anche sull'altra notizia importante di oggi. Oggi abbiamo un nuovo presidente americano, il 45esimo. Donald Trump ha giurato, abbiamo sentito prima il giuramento, continua la parata inaugurale, no Sergio? Nava. Sì, iniziata praticamente un'ora fa. Facciamo capire cos'è questa parata inaugurale. Potremmo dire parata, processione che con si le snoda. Macchine in, esatto, testa c'è il presidente Trump con la moglie Melania. Esatto, 2,4 chilometri circa dal Campidoglio fino alla Casa Bianca a passo Duomo. In testa c'è la macchina presidenziale, c'è anche poi il vicepresidente nel corteo, come poi ci sono, insomma, militari, bande musicali, giornalisti al seguito, un lungo serpentone che copre questi 2,4 chilometri. Bisogna anche dire che nel momento, tra l'altro siamo ora davanti alla Casa Bianca, quindi la parata è praticamente giunta alla sua conclusione. Donald Trump è sceso 2 volte dall'auto, ha percorso per pochi minuti, circa 4-5 minuti, anche meno, un tratto a piedi con la moglie Melania e il figlio più piccolo, Baron. La seconda volta in cui è sceso dalla macchina è stato accompagnato anche dalle figlie più grandi con i rispettivi mariti. Senti, ho sentito che Ivanka, che è la, diciamo, figlia, la chiamano figlia prediletta, quella che è un po' nell'ombra, la sua assistente, il suo braccio destro, abbia detto oggi: io First Lady, è un po' improprio chiamarmi così, perché di solito è la moglie, la compagna, insomma, del presidente, anche se sembra che lui, seppure poi a un certo punto Trump ha detto ma no, lei si continua a occupare della sua famiglia, dei suoi figli, però ha sempre avuto e ha tuttora un ruolo. Beh, il marito sarà di fatto un super consigliere di Trump alla Casa Bianca. Ecco, Trump è proprio in questo istante, sta scendendo dall'auto davanti alla Casa Bianca, davanti quindi alla sede del suo governo per i prossimi quattro anni. Cravatta rossa d'ordinanza. È sempre, cioè, diciamo, lo stesso vestito a cui ci abbi- non si è cambiato, anche perché non ha avuto il tempo, che dopo il discorso è diciamo, andato subito in Campidoglio per il pranzo inaugurale con senatori e deputati. Trump appunto è sceso proprio in questo istante dall'auto, sta salutando la folla, folla che diciamo non è solamente i sostenitori, ora cammina. Ci sono state anche grosse proteste, sì, diversi arresti. Proteste, no? Lungo la parata, molto pacifiche, con persone che hanno sollevato cartelli contro Trump e fischiato, e proteste meno pacifiche nel resto della città di Washington. Siamo a 100 arresti e anche episodi di vandalismo non indifferenti, uno Starbucks vandalizzato, una limousine bruciata e vari scontri per la città. Diciamo che sono proteste non proprio usuali per una giornata che è di festa a Washington e più in generale negli Stati Uniti. E tra l'altro chiedo a Marco Valsani, domani mi pare che sia previsto sempre a Washington una grande marcia delle donne, di protesta? Sì, sì, esatto, domani diciamo un po' il clou della protesta, diciamo oggi... in tutto Washington erano attesi forse 300.000 dimostranti, diciamo anti-Trump. Il clou però era sicuramente la marcia, è sicuramente la marcia, diciamo, delle donne di domani, a cui sono attese oltre 200.000 persone. E un po', diciamo, le proteste sono un po' un classico del diciamo, forse non proprio un classico, comunque ecco, non insolite, diciamo, negli insediamenti precedenti. Però per arrivare a questo livello di proteste bisogna risalire agli anni della guerra del Vietnam, insomma, gli anni 70 contro Nixon, quando ci furono appunto tipo 100.000 dimostranti alla seconda inaugurazione di Nixon. Ecco, poi Nixon finì quella seconda presidenza, finì con un impeachment. Non so se questo possa essere, diciamo così, in qualche modo un buon augurio. Senti, vorrei passarti un ascoltatore che chiama l'800240024 e vuol parlare di Trump, vero Emanuele da Roma? Sì, ciao, buonasera, salve a tutti. Io chiaramente, come forse ha detto la vostra segretaria, sono un trumpista convinto. La nostra centralinista che ringraziamo, sì, sei un trumpista, trumpista convinto. Sono un trumpista convinto, sono molto contento di questa elezione e devo dire che il discorso che ha fatto l'ho trovato molto interessante, soprattutto per quello che avete fatto notare sia oggi pomeriggio Barison, cioè che non è stato un discorso istituzionale. Questo vuol dire che finalmente si rompe dopo questi ultimi 8 anni in cui tra l'altro voi giornalisti avete delle colpe mostruose perché avete contribuito a creare questa aurea istituzionale di sostanzialmente ipocrisia attorno alla presidenza Obama e per la quale Obama ha seminato guerre, morte e distruzione. Cioè Emanuele, scusa, non ho capito, è colpa nostra questa aurea che si è creata intorno a Obama, perché tu pensi tra l'altro che Trump sarà un pacifista, già provocato fortemente la Cina, ha detto che bisogna... A differenza del comitato del premio Nobel che ha dato il premio Nobel a Obama sulla fiducia, per ora Trump quello che ha annunciato andrebbe nella direzione di distensione con la Russia, fine del sostegno ai terroristi in Medio Oriente, possibilmente anche in parte smantellamento della NATO, che significa anche sostanzialmente smettere di spendere soldi nella grande lobby delle armi, perché poi in America le lobby delle armi sono due. Ma lui sembra favorevole alle lobby delle armi, no? Mi sembra che appunto abbia detto. Questa è una delle cose che stavo dicendo, cioè voi giornalisti spesso e volentieri non puntualizzate bene sul fatto che in America le lobby delle armi sono due, perché una è la lobby dei fucili, la National Rifle Association, l'altra è la lobby che produce le armi da guerra, dai missili nucleari alle portaerei, ai carri armati, che non è esattamente la stessa cosa, perché la lobby dei fucili è una lobby sia di produttori di armi portatili, sia però anche dei singoli cittadini. Tra l'altro Emanuele, leggevo poco fa che intende subito sostituire la Beretta di produzione italiana con, non ho capito che tipo di arma. Emanuele, ti ringrazio e vorrei che rispondesse Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Marco? Diciamo è assolutamente comprensibile la cosa che diceva l'ascoltatore, e diciamo anche in America ci sono molti che hanno, diciamo, si sentono rappresentati dal tipo sia di retorica che di posizione di Trump. Diciamo che La grande sfida, senza appunto voler esprimere giudizi diciamo preconcetti, ma la grande sfida a questo punto Trump si troverà a dover affrontare sarà quella diciamo appunto di superare la non istituzionalità così d'immagine, cioè i tweet prima e adesso un discorso diciamo quantomeno insolito. Poi 18 minuti è durato, diciamo, no? Piuttosto 16. 16, sì, esatto, 16-18 minuti. Ecco, e diciamo andare poi alla prova dei fatti, diciamo il populismo spesso diciamo così cade diciamo poi alla prova dei fatti nella soluzione delle questioni, però diamogli il beneficio del dubbio come la stessa Hillary Clinton ha dato, cioè, senz'altro, ma solo per, diciamo, per fare un paio di esempi, diciamo anche Obama era partito con l'idea di un reset nei rapporti con la Russia, non solo Trump, non è che diciamo così anche Obama non era esattamente un candidato, non era assolutamente un candidato istituzionale, se vogliamo, anzi, diciamo, aveva aspettato diciamo, quella che era l'establishment democratico per battere a sua volta Hillary Clinton allora. Quindi ecco, diciamo così che non è che adesso sembra che Trump in qualche modo sia davvero per qualche diciamo ragione metafisica portatore automatico del grande cambiamento. Bisognerà vedere alla prova dei fatti diciamo le grandi promesse che ha fatto non sono per il momento supportate da altrettanto chiari programmi concreti, comunque che dovrebbero in qualche modo portare posti di lavoro, crescita economica, sì, sentivo, e 4% diciamo, del PIL, che questo poi sia possibile restano diciamo così come resta il dubbio che sia in grado, perché un'altra funzione cruciale della presidenza americana che ricordiamo è particolarmente potente e influente come tipo di presidenza, è anche quella di saper unificare il paese. Ecco, al momento forse il difetto principale di Trump è stato quello, al di là delle parole, lui ha anche ricordato oggi, en passant, che così gli americani sono più forti quando sono uniti, ma sicuramente non ha saputo dimostrare di essere in grado di unificare il paese. È arrivato a questo primo mandato con un consenso degli elettori in questo momento del 40%, ricordiamo quando Obama fu nominato il consenso era dell'80%. Caspita, il doppio. Allora... E questo vale per tutti gli elettori, non diciamo per gli elettori solo di un certo tipo, questi sono così sondaggi generali. Marco, aspetta, allora poi la parola a Sergio Nava dopo la viabilità, però volevo sentire un attimo anche Carla da Padova, all'800240024, sì. 0024, sei sintetica Carla? Sì. Grazie. Certo che se già mi saluta così mi taccio e mi Carla, saluta. Carla, ti sento malissimo, come mai? Adesso mi sente meglio? Hai un viva voce? Cosa no, non ho il viva voce, ho un telefono che in questi giorni fa un po' così. Ecco, dimmi pure, brevemente. Allora, sì. Io non so, come non lo sa nessuno, che presidente sarà Trump. Bisogna, come tutte le persone, giudicare dei fatti, però sono abbastanza infastidita da questa da parte della stampa che sta pilotando, come spesso avviene, l'opinione pubblica con una certa virgolette verso questa persona, non ha certo la stampa dalla sua parte, con critiche addirittura ridicole come il colore dei capelli. Se non bisogna giudicare le persone dal colore della pelle, spero che questo avvenga sempre meno, nemmeno del colore dei capelli. Questo è ho capito, Carla, tu dici lasciamolo lavorare senza pregiudizi. Sentiamo Sergio che cosa risponde. Grazie Carla. A proposito dei rapporti con la stampa, rispondo da giornalista perché io ho visto televisivamente una delle ultime sue conferenze stampa prima di giurare qualche giorno fa, e quello che mi ha colpito di Trump è il modo in cui trattava i giornalisti, cioè in modo anche un po' dispotico, arrogante, rivolto al giornalista del CNN, diceva la vostra televisione dice solo falsità, e lui chiedeva di fare una domanda e diceva no, la domanda lei non la fa un altro suo collega, lui insisteva. Cioè io penso che quando si trattano le persone in modo arrogante comunque non si parta bene. Tra l'altro una delle ultime dichiarazioni, appello che ha fatto Obama a Trump, e ha detto ieri o l'altro ieri bisogna rispettare nel nostro paese democratico la libertà di stampa, no? Cosa. Diciamo, il modo in cui lui si pone quando è in difficoltà denota una personalità purtroppo arrogante, e questo personalmente non mi piace, perché la stampa sicuramente crea miti, distrugge miti, eccetera. Però Trump ha una personalità che quando le cose non gli vanno bene o quando è in difficoltà... Quindi un po' dispotica, dici Vincenzo da Roma, l'800240024. Sì. Vincenzo, sì, siamo qua. Eccomi. Prego. Allora, dunque, io per quanto riguarda Trump, penso che lui abbia raccolto, non abbia fatto altro che raccogliere le istanze della classe media che non è più rappresentata politicamente. Questo è il problema. Ha promesso di far ripartire l'economia, praticamente un New Deal americano, quindi di fare quelle politiche keynesiane che diano lavoro agli americani. E forse probabilmente uscirà dal paradigma liberista che i neocon si stanno imponendo e lo stanno imponendo a tutto il mondo. Le guerre che promuove l'America non sono altro che per imporre loro la loro visione economica. Ma secondo te, Vincenzo, sì, ma mi viene un dubbio, secondo te un uomo così ricco, un magnate, ricchissimo, un ultramiliardario, può essere uno che non è arrivato a quel punto con una cultura anche liberista, secondo lui te? Lui dovrebbe far parte dell'establishment per la posizione economica che riveste, ma lui ha anche detto che poteva permettersi di ritirarsi a godersi i suoi tanti soldi, ma vuole fare qualcosa per il suo paese. Ha anche detto che il suo paese si vergogna quando rientra in America perché hanno delle infrastrutture da terzo mondo, ed è la verità. Cioè, quando gli stati sovrani sono disattivati e ci si affida al laissez-faire, il laissez-faire ha prodotto la prima e la seconda guerra mondiale. Nel 29, esatto. quando crolla Wall Street, crolla e produce questa la famosa grande depressione, sì, proprio perché era all'epoca tutto in mano ai mercati. Posso sentiamo Sergio Nava che vuole rispondere, una cosa, Vincenzo, perché lei grazie. Pone un punto veramente interessante. Trump è sicuramente il prodotto di una globalizzazione governata male, e su questo non ci piove, lo abbiamo visto anche in Europa, però bisogna anche vedere che soluzioni proporrà lui e se funzioneranno. Il fatto che Donald Trump nel discorso inaugurale usi toni molto populisti nell'accezione assolutamente asettica, non voglio dare connotati negativi a questa parola, però, e quindi dice il popolo viene a Washington, il popolo farà, il popolo governerà, poi però riempie la sua amministrazione dell'establishment economico-finanziario, Rex Tillerson e vari banchieri, ex Goldman Sachs, eccetera. Ci vedo sinceramente un po' di contraddizione, usa quella stessa macchina economico-finanziaria che ha prodotto anche certi disastri per poi ripararli. Vedremo. Marco Valsania, tra l'altro... Oh, sì. Sì. Sì. No, dicevo, i punti per l'economia più chiari del suo programma, quali sono? Ma ecco, se intanto posso fare così una battuta, diciamo così, magari può servire, diciamo, anche come spunto di riflessione. Cioè, in realtà, il Trump può anche apparire una estrema novità, e lo è per molti versi, però diciamo il populismo conservatore, che tra l'altro ha una lunga storia negli Stati Uniti, forse addirittura diciamo per certi versi un po' una patria d'adozione, diciamo ha sempre quel tipo di caratteristica, cioè crea, diciamo così, un triangolo, cioè sposa una concezione del popolo un po', diciamo, arbitraria, di solito un popolo bianco. E con, diciamo, ben a questo proposito mi pare che si scontra, diciamo, contro un'elite che in realtà è alleata con masse di diseredati, diciamo, che usurpano questo popolo. Esatto. Marco, scusa, mi pare un cronista oggi parlava delle persone presenti al giuramento e che non ci fosse quasi nessuna faccia di persone di colore. È vero che c'era... Sì, diciamo che tradizionalmente, diciamo, il Partito Repubblicano ha una grossa un grosso problema, diciamo, di rappresentanza delle minoranze etniche, e Trump, diciamo, sicuramente ce l'ha, diciamo, ugualmente e per certi versi di più, almeno per alcuni tipi di minoranze etniche, soprattutto gli afroamericani, ecco. In parte anche gli ispanici. Ecco. Però ecco, è solo per, diciamo, dare una chiave di lettura al tipo di populismo che offre Trump e che non è, diciamo così, del tutto inedito, e spiega qual è, diciamo, un po' questa contraddizione che lo vede un po' prigioniero da una parte di questa sua, diciamo, spinta anti-elite, ma dall'altra anche questa diciamo così rabbia contro diciamo i più poveri diseredati, per in qualche modo così farsi paladino campione di una accezione molto particolare dei ceti medi e della classe media che esclude tendenzialmente minoranze etniche e diverse, diciamo. Mm, sì. Tu sì. Però mi chiedevi punti chiave. I punti chiave del programma economico riflettono un po' questo tipo di caratteristica anche populista che è un po' nuova per il Partito Repubblicano degli ultimi decenni, e cioè probabilmente il punto chiave più forte del programma economico di Trump è la promessa di, in realtà è una promessa che può piacere molto ai democratici più che ai repubblicani, cioè la promessa di un grande piano infrastrutturale, di grandi spese infrastrutturali che portino in questo modo grande creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti. Non per nulla lui fa riferimento, se non direttamente a Roosevelt, che era un democratico, ma quantomeno a Dwight Eisenhower, che era diciamo, un repubblicano un po' sui generis, ma che fu un po' il padre della rete autostradale americana, dei grandi investimenti nelle autostrade americane, investimenti tuttora, diciamo, voglio dire, sono gli unici che sono venuti veramente, per questo le infrastrutture americane sono un po' decrepite. Ecco, se riuscirà a mettere in piedi davvero questo tipo di grande piano infrastrutturale, forse ecco la sua presidenza potrà camminare su un pilastro più solido. Ma ricordiamo che questo tipo di progetti sono stati più volte invocati anche da soprattutto dai democratici e dai repubblicani di recente, ma si sono sempre arenati nel nulla. Bisogna vedere se Trump sarà davvero quello che è in grado, al di là delle promesse, di realizzare davvero questo tipo di grande così quasi una specie di New Deal conservatore. Grazie Marco Valsania. Ciao Marco, dagli Stati Uniti. Grazie a voi. Ciao Marco, avrò modo Marco di vedere anche prima di tutto sulla sua pelle quotidianamente che cosa succederà lì. Tra poco abbiamo il nostro Paolo Corazzone anche per capire quali sono le previsioni in meteo per i prossimi giorni, che sono di particolare interesse in questo periodo. Sergio, direi che voglio solo dare a chi invece ha nostalgia di Barack Obama, ha twittato poco fa: vado una rapida vacanza con Michelle, poi torno al lavoro. Quindi Sibillino fa capire che non sparirà proprio. Ho visto anche che ha lasciato una lettera sul tavolo lo fanno Trump. Tutti. Questo non è una che c'era scritta vecchia tradizione. Chissà cosa ci sarà scritto, lo scoprirà tra poco Trump. Appena entra alla Casa Bianca lo scoprirà. Ci sarà la letterina lì sulla scrivania. Grazie Sergio Dava. Ciao Sergio. Ciao. Grazie all'ascoltatrice e ascoltatori. Non c'è più tempo, c'è tempo giusto di sentire Paolo Corazzone di Trebi Meteo, portatore sano di sole. Anche se Paolo, mi sa che se si alzano le temperature in questi giorni si parla di rischio valanghe anche, no? Sì, per forza di cose. Buonasera Roberto. Infatti, allora, intanto c'è da dire che nel weekend nelle zone colpite dal maltempo, quindi Marche, Abruzzo, Molise, non pioverà e non nevicherà. E questa è già una buona notizia, ma settimana prossima in realtà già subito da lunedì il tempo tornerà a peggiorare da quelle parti e con temperature più alte, quindi pioverà e la pioggia che verrà scioglierà in realtà la neve con un rischio appunto ancora di smottamenti, di slavine, di valanghe, perché abbiamo 2 metri di neve al suolo in alcune zone, quindi la situazione non è per niente tranquilla, però quantomeno per le prossime 24 ore, 48 ore, anzi, non verrà giù niente dal cielo, questo è già molto positivo. Invece arriva una nuova perturbazione, ma questa volta sull'altro versante italiano, sul Tirreno, quindi domani pioverà in Sardegna e Sicilia, domenica piogge su tutte le regioni tirreniche, in realtà però piogge non particolarmente intense, quindi weekend sempre un po' variabile, ma con il nord all'asciutto, situazione quasi siccitosa al nord, bisognerà aspettare febbraio perché al nord tornino alcune perturbazioni. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque. Ciao, sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo, e per chiudere, mentre ringrazio Cristian Goldoni e alla parte tecnica Filippo Oreggi, vi dico quest'ultimo aggiornamento: la Protezione Civile dice che le ricerche andranno avanti tutta la notte, proseguirà anche stanotte all'hotel Rigopiano con particolare attenzione alle misure per garantire la sicurezza degli operatori in un contesto tecnico particolarmente complesso, l'impegno nelle operazioni di ricerca e soccorso all'hotel Rigopiano nel comune di Farindola. Finora gli sforzi delle squadre hanno consentito di portare in salvo oggi 5 persone, tra cui 4 bambini, altre 5 persone in vita sono state individuate e si sta lavorando insomma per estrarre anche loro. A questo punto, dopo questa lunga diretta, Roberta Giordano vi ringrazia, vi saluta e come sempre vi do appuntamento alle 21 lunedì.